2007 Nigeria Overfighter Mazzacchiano il posto. Ucciso come sempre fine. So che perdo il mio cielo mentre questi spettri ridono, ma spezzo la luna mentre queste stelle gridano. Già strappo la luce a pagine senza domani. Fra l'inchiostro scende, inchioda stigmati alle mani. Se sollevo i pugni rispondo colpo su colpo, siederò su questa luce quando lascerò il corpo. Man, macchio le ali tra il mio cielo e il nirvana. Inseguo il prezzo dell'onore in mezzo a figli di puttana. Fra strappami il cuore per ogni stronzo che schiaccio. Lo vedi, piove merda sul mio deserto di ghiaccio. Ho voglia di amare ma ancora un cuore di pietra. Andiamo dove vuoi, fra, ma via da questo pianeta. Vivo notti senza stelle, traversi colmi di rabbia. Leggo anime nell'ombra tra castelli di sabbia. Ammetto fiamme nei peccati tra questi lamenti sordi. Ed è come quando la cenere divora i tuoi ricordi. Mazza che ne bei su questa cazzo di scena. Non siamo come voi, non colpiamo mai la schiena. Mazza che ne bei, figli del fottuto rap. Andremo sempre avanti finché il mondo non cadrà. Mazza che ne bei su questa cazzo di scena. Noi non proviamo invidia, ci fate pena. Mazza che ne bei, figli del fottuto rap. A questi due bastardi nessuno li fermerà. Troppi finti gas su questo fottuto cazzo. Falsi rapper costruiti su alibi di ghiaccio. La mia materia grigia spaventa più di Nikita. La tua materia grigia prende fuoco dall'invidia. Riga, non scrivo fogli folli su una falsa riga. Vita, che non mi ha dato un cazzo né una via d'uscita. Ita, già non ho rispetto sto paese fatto da pretese. Finti ricchi che non arrivano a fine mese. Scrivo roba troppo drastica per questa gente spastica. Materia incasti fra, tu non mi incastri fra. Se vedi l'odio con cui credo qua, capisci dopo il talento dove sta. Ma sento troppa gente che parla bla bla bla. Io non vi sento fra, io non vi sento fra. Entro nelle membra come neve di Colombia. Dove passo lascio sempre la mia impronta. Mazza che ne bei su questa cazzo di scena. Non siamo come voi, non colpiamo mai la schiena. Mazza che ne bei, figli del fottuto rap. Andremo sempre avanti finché il mondo non cadrà. Mazza che ne bei su questa cazzo di scena. Non proviamo invidia, ci fate pena. Mazza che ne bei, figli del fottuto rap. A questi due bastardi nessuno li fermerà. Man, stingo il mio cielo se il sole prova a fermarmi. Fighters, grida più forte, so che non potrete amarmi. Volevo colpire il cuore, farli schiavi di un mio verso. Volevo il cielo in una mano per renderlo a chi l'ha perso. Over, spoglia la luce, maledice il mio poeta. Man, strappa il mio cuore, spegne stelle dal pianeta. Ricordo sorrisi, luce, ragazzini su quei prati. Ricordo quando i miei versi hanno sposato i miei peccati. Vorrei attraversare deserti restando salvo, reincarnare i profeti, reggere il mondo sul mio palmo. Man, ci metto cuore e palle nell'amarlo. Il peso di queste note, mazza, sa di ciò che parlo. Vita, stringi più forte, so bene che non mi ami. Il fuoco di questo tempo partorisce nuovi infami. Sono troppe lacrime, nuovi stronzi da stendere. Ho ancora voglia che il mio cielo torni a splendere. Mazza che ne bei su questa cazzo di scena. Non siamo come voi, non colpiamo mai la schiena. Mazza che ne bei, figli del fottuto rap. Andremo sempre avanti finché il mondo non cadrà. Mazza che ne bei su questa cazzo di scena. Noi non proviamo invidia, ci fate pena. Mazza che ne bei, figli del fottuto rap. A questi due bastardi nessuno li fermerà. L'anno 2007, The Rap Songs, Dear Blade, Mazza Ken, per pagine d'asfalto, yeah. Realtà di strada, oh, Digerio e la fottuta famiglia, oh, yeah, statene fuori bastardi.